Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Oltre 2 milioni nel mondo le Audi coinvolte nello scandalo emissioni, 1,5 milioni nella sola Europa occidentale, titolo Volkswagen ancora pesante in borsa. L'Europa all'Italia riduca le tasse sul lavoro, sposti l'imposizione su casa e consumi, risale la fiducia dei consumatori ai massimi dal 2002 e quella delle imprese al top da 8 anni. All'Italia per il crack della gestione fino al 2007, condannati gli ex manager, tra loro Cimoli e Mengozzi, avrebbero causato un danno da 4 miliardi, risarcimenti per 350 milioni. Crolla un controsoffitto in una stazione della metropolitana di Roma, evacuato un convoglio, treni fermi, forse ripartono nel pomeriggio. Dopo il crollo dell'Inter contro la Fiorentina, il campionato ancora senza un vero leader. MotoGP, la lotta tra Rossi e Lorenzo si fa più serrata. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Una notizia appena arrivata, appena battuta dalle agenzie di pochi istanti fa, è stata aperta un'indagine sull'ex amministratore delegato di Volkswagen, Martin Winterkorn. La notizia appunto è stata battuta poco fa dalle agenzie internazionali, approfondiremo tra poco. Intanto andiamo ad un'altra notizia di poco fa, ossia le dichiarazioni che arrivano da Bruxelles, dalla Commissione europea sull'Italia, su quello che dovrebbe fare dal punto di vista fiscale, una sorta di raccomandazione che potrebbe creare qualche problema, perché si chiede, come avete sentito nei titoli, di spostare l'imposizione dal lavoro a casa e consumi, il tutto con una legge di stabilità che si sta avvicinando e nella quale si vorrebbero tagliare proprio le tasse sulla casa. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Osservazioni, quelle che arrivano da Bruxelles, che si focalizzano, Simone, soprattutto in questa fase sul livello di tassazione del nostro paese. L'Italia, come altri stati membri, dice il rapporto, ha tasse relativamente alte sulle compravendite immobiliari, mentre le tasse annuali sulla proprietà non sono particolarmente alte, per cui c'è spazio per migliorare l'efficacia modificando la struttura tributaria nell'ambito della tassazione sui beni immobiliari. Ed ancora, secondo l'Unione Europea, il nostro paese ha un peso fiscale relativamente alto sul lavoro e ci sarebbe almeno un margine per spostare il peso fiscale a imposte meno distorsive come quelle sui consumi, quelle ricorrenti sulla proprietà immobiliare e quelle sull'ambiente. Altro capitolo, quello dell'IVA per i vertici europei. L'Italia ha un gap significativamente più alto della media, con bassi livelli di introiti e di rispetto delle norme amministrative. Sin qui le note dolenti europee. Indicazioni positive arrivano invece, Simone, oggi dall'Istat e riguardano la fiducia di consumatori ed imprese. È evidentemente tutta un'altra percezione rispetto al passato. L'indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta infatti a 112,7 da 109,3 di agosto. Parliamo del dato di settembre, che risulta a questo punto il livello più alto da oltre 13 anni. Per trovare un dato maggiore bisogna tornare a marzo 2002, quando si attestò a 114,4. Ottimismo, come dicevamo, anche dal mondo produttivo. Il relativo indice al massimo dall'inizio della crisi, ossia dal 2007, 106,2 questo settembre, 107,1 8 anni fa. Il paese torna a credere in sé, commenta il ministro dei trasporti Delrio, intervenuto all'inaugurazione del CERSAIE. Sentiamo Delrio. Ma abbiamo sempre detto che, lavorando ogni giorno sui problemi, cercando di mettere avanti le soluzioni con disciplina, si poteva riacquistare la fiducia della gente, delle famiglie, delle imprese. I dati sui consumi, i dati della fiducia, i dati anche del mercato immobiliare persino, ci dicono che appunto il paese ricomincia a credere in se stesso. Noi siamo come governo intenzionati a continuare a creare le condizioni perché le imprese assumano di più, perché diminuisca la disoccupazione, appunto perché vi siano più opportunità, e siamo al fianco delle imprese e delle famiglie in questo percorso. Questo è il quadro e grazie a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Siamo alla vicenda Volkswagen. Come vi abbiamo raccontato pochi istanti fa, la notizia viene battuta in questi minuti dalle agenzie che è stata aperta un'indagine sull'ex amministratore delegato, dimissionario da poco, come sapete, Martin Winterkorn, un'indagine aperta dai giudici della Bassa Sassonia. Vedremo come evolverà da questo lato, mentre ci sono novità che arrivano anche da Audi, che annuncia che sono oltre 2 milioni i veicoli della stessa Audi coinvolti nello scandalo emissioni. Un punto di giornata con Andrea Malan del Sole 24 Ore, un punto che sta diventando un appuntamento fisso. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, qual è il quadro di oggi? quello di oggi è complicato. Allora, ci sono, il ministero nel weekend il tedesco ha dato alla Volkswagen fino al 7 ottobre per definire un piano come risolvere il problema. Questa è una cosa importante. Volkswagen deve ancora dire, tu hai citato i 2 milioni di Audi, deve ancora dire quali sono esattamente i modelli coinvolti, in quali paesi, venduti quando. Ci stanno lavorando, dicono, hanno fino al 7 ottobre e entro quella data dovranno anche dire come e quando mettere a posto le cose. Quindi i richiami che riguarderanno anche le auto vendute in Italia, che sicuramente comprenderanno la sostituzione e il cambio del software, ma non è detto che sia sufficiente per rendere la macchina rispettosa di tutte le normative. A questo proposito, la Volkswagen Italia ha anche deciso di bloccare la vendita dei modelli con motori Euro 5 ancora disponibili. Ricordiamo che in teoria i modelli con motore Euro 5 non si potrebbero più vendere in tutta Europa dal 1 settembre scorso. In Italia è stata però concessa una deroga ai costruttori per smaltire le scorte, quindi in teoria le Euro 5 di qualsiasi costruttore sono ancora vendibili. Volkswagen ha detto per ora noi non le vendiamo più, ovviamente in attesa poi eventualmente di fare le correzioni anche a questi veicoli prima di venderli. Tutto questo comporta, Andrea, che nemmeno sull'Italia i possessori di auto e il gruppo Volkswagen abbiano chiarezza se le loro auto sono coinvolte oppure no, perché la stessa Volkswagen che non lo sa effettivamente o sta raccogliendo i dati. Assolutamente no, è la stessa Volkswagen, diciamo, dalla sede centrale, dagli stabilimenti produttivi, che sta raccogliendo i dati per definire esattamente di quali anni e di quali modelli si tratta. Credo che ci vorrà ancora qualche giorno, ovviamente i nostri ascoltatori, molti di loro sono in attesa di sapere se la loro auto dovrà essere richiamata o no. In ogni caso giova ricordare che comunque si tratta di automobili che possono perfettamente circolare, sono sicure. Il problema è che inquinano più di quanto in teoria uno poteva aspettarsi. Di qui anche l'ultima cosa, e cioè la possibilità che emergano nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, delle class action, delle cause contro Volkswagen per frode piuttosto che per altri motivi. Alcune sono state preannunciate anche in Italia, ma è ovvio che prima che vengano avviate bisognerà sapere appunto qual è l'oggetto e quindi i veicoli coinvolti. E grazie anche per oggi ad Andrea Malan del Sole 24 Ore sul tema di Volkswagen. Torneremo più avanti nella seconda parte della trasmissione, sentiremo delle voci che abbiamo raccolto, che ha raccolto il nostro Vincenzo Miglietta oggi, che veniva presentata l'indagine, la consueta indagine trimestrale di Federmeccanica, dal lato soprattutto delle preoccupazioni per quelli che sono i fornitori italiani del gruppo Volkswagen, che sono un altro tema importante. Un'altra vicenda che tocca una compagnia, che tocca un'azienda e che confina con le vicende giudiziarie è quella di Alitalia, oggi un giudizio per la gestione 2001 e 2007. Si è concluso con 4 condanne per bancarotta fraudolenta e 3 assoluzioni il processo per il crack della vecchia Alitalia nella gestione 2001-2007. I giudici della 6ª sezione penale del Tribunale di Roma hanno dato 8 anni e 8 mesi di reclusione a Giancarlo Cimoli, ex presidente amministratore delegato della compagnia, in carica tra il 2005 e il 2008, quando andò via con una buona uscita di 3 milioni di euro. 6 anni e 6 mesi sono stati dati invece a Pierluigi Ceschi, ex responsabile del settore finanza straordinaria, 6 anni a Gabriele Spazzadeschi, già direttore generale del settore amministrazione finanza, 5 anni a Francesco Mengozzi, amministratore delegato dal febbraio 2001 al febbraio 2004. A Cimoli vengono contestati anche 2 episodi di aggiotaggio per la diffusione tra novembre 2005 e la primavera 2006 di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione dei valori del titolo Alitalia. Assolti per non aver commesso il fatto invece gli ex funzionari Giancarlo Zeni e Leopoldo Conforti e Gennaro Tocci. A favore delle parti civili sono stati poi disposti dal Tribunale di Roma anche una serie di risarcimenti per oltre 355 milioni di euro e la maggior parte di questa cifra, circa 160 milioni, dovrà ridarla proprio Giancarlo Cimoli. Ai 4 ex manager sono state concesse le attenuanti generiche, ma è stata disposta l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata della pena. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo agli esiti del voto in Catalogna, dove gli indipendentisti, due distinti partiti, sono riusciti ad ottenere la maggioranza dei seggi, anche se hanno meno del 50% dei voti. Hem guanyat, hemos ganado, we have won, nos avon gagné. Ha guanyat el sí, però a més ha guanyat la democràcia. Abbiamo vinto e con noi la democrazia. Esulta Artur Mas, presidente regionale uscente, leader socialista di Convergència e Unió, che ha trasformato queste elezioni regionali in un plebiscito sull'indipendenza catalana. A Barcellona dunque c'è aria di festa, ma di fatto si tratta di una vittoria a metà. Gli indipendentisti conquistano sì la maggioranza dei seggi, 72 su 135, ma non la maggioranza dei voti. Il sì allo strappo da Madrid in termini di voti si ferma infatti al 47,8% a causa del sistema proporzionale. Il no espresso dal Partito Popolare di Mariano Rajoy, il Partito Socialista, Podemos e Ciudadanos è stato infatti la maggioranza. Di fatto Artur Mas non ottiene quel mandato chiaro a cui aspirava. Un risultato che dunque lascia varie porte aperte. Il Parlamento catalano potrà dichiarare l'inizio del processo di disconnessione, un atto che il governo di Madrid ha già detto di voler impugnare davanti alla magistratura, o potrebbe usare la proclamazione di indipendenza come strumento di pressione politica. Nelle prossime settimane metteremo le basi per l'indipendenza dalla Spagna, annuncia intanto Artur Mas. Su tempi e modi il quadro ancora non è chiaro, di certo a chiarirlo saranno le elezioni politiche di dicembre. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. L'analisi di Daniele Biacchessi. Da ieri, dopo le elezioni catalane, un fantasma si aggira per l'Europa e si chiama secessione. La netta vittoria degli indipendentisti catalani mette a dura prova la tenuta politica delle istituzioni di Madrid. Le due liste autonomiste portano a casa una maggioranza assoluta di 72 seggi su 135 nel nuovo Parlamento catalano, anche se rimangono sotto il 50% dei voti, esattamente con il 47,8%. A questo risultato clamoroso si devono aggiungere poi alcuni dati incontrovertibili: la catastrofe dei popolari di Mariano Rajoy, la disfatta della lista Post Indignados di Podemos e di Pablo Iglesias, la sostanziale tenuta dei socialisti e della sinistra pur su livelli bassissimi di consenso. Il vento catalano passa quindi dalla scelta del presidente uscente Artur Mas di trasformare delle semplici elezioni regionali anticipate in un plebiscito sull'indipendenza e in un muro contro muro con Madrid. Ora la prossima mossa prevedibile sarà l'avvio di quella che Mas chiama la disconnessione della Catalogna dalla Spagna, fino alla ormai certa secessione entro il 2017. Si tratta di passaggi che potranno solo condizionare anche i prossimi passi politici di molte altre formazioni di tipo secessionistico, come la Lega in Italia. Crolla un controsoffitto, si ferma la metropolitana di Roma. Non sembra proprio esserci pace per il trasporto pubblico della capitale. Dopo un'estate tutt'altro che facile, da questa mattina un nuovo incidente sta creando pesanti disagi sulla linea A della metropolitana. Un controsoffitto è caduto bloccando un convoglio all'altezza della stazione di Piazza di Spagna. Il treno è stato evacuato, non ci sono state conseguenze per i passeggeri, ma la linea è stata interrotta fra le fermate San Giovanni e Ottaviano in entrambe le direzioni. È stato attivato un servizio sostitutivo di superficie che è stato letteralmente preso d'assalto dai passeggeri. La circolazione non tornerà alla normalità prima delle 15. L'incidente è stato causato da un cedimento strutturale o da un errore umano, ha fatto sapere l'assessore alla mobilità Esposito, annunciando l'apertura di un'inchiesta. Secondo una prima ricostruzione, un pacco batterie delle dimensioni di 2 metri per 1 si sarebbe staccato dal treno colpendo il soffitto della galleria. Purtroppo siamo appesi alla fortuna. Sono troppi anni che non si fa manutenzione e allora non si può pretendere che le cose funzionino a dovere, ha spiegato l'assessore. Esposito si occupi di reperire le risorse, manca la sicurezza e siamo vicini al collasso con il Giubileo alle porte, incalzano invece i sindacati, mentre il Codacons annuncia un esposto in procura chiedendo di indagare sulla manutenzione della metropolitana. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di questo torneremo a parlare proprio con l'assessore alla mobilità Esposito tra poco. Intanto andiamo a questo fine settimana sportivo, che è un fine settimana di riavvicinamenti, se così possiamo dire. Da una parte la Fiorentina che, battendo l'Inter, l'aggancia in testa e anzi diventa prima, e dall'altra parte in MotoGP il Lorenzo che si avvicina a Valentino Rossi. Dario Ricci. Sì, buongiorno Simone, buongiorno a tutti. In realtà sono due campionati senza padrone, no? Perché l'Inter ha un passo dalla fuga buona, spreca la grande occasione, soprattutto direi per merito della Fiorentina, nerazzurri che pagano i loro errori, quelli del portiere Handanovic, ma anche testimoniano di non essere già quella squadra perfetta che forse con troppa fretta avevamo cercato di certificare. Bene invece che il campionato offra tante facce nuove, tanti protagonisti nuovi, viene in mente appunto Kalinic, autore della tripletta ieri sera, oppure questo Torino che sprizza gioventù, freschezza e nuovi protagonisti. Altrettanto stretto il duello per la MotoGP, si entra adesso nella fase decisiva, ancor più decisiva, perché Valentino Rossi deve difendere i suoi 14 punti di vantaggio nel trittico in Oriente. L'11 ottobre c'è già il Gran Premio del Giappone al Motegi e quindi sarà un poker di gare strettissimo. Una nota importante, tornando al calcio: oggi la Procura di Milano ha ufficializzato che di fatto sta indagando sulla compravendita dei diritti TV, un'inchiesta importante che si interseca con un'altra data decisiva, 30 settembre, dovrebbe essere mercoledì il giorno del closing dell'operazione per la cessione del 48% del Milan da Berlusconi al famoso Mr. B. Staremo a vedere gli sviluppi, ve li racconteremo nei nostri GR. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La vicenda Volkswagen è indagato in Germania l'ex amministratore delegato Winter Korn. Sono oltre 2 milioni nel mondo le Audi coinvolte nello scandalo emissioni. L'Europa all'Italia riduca le tasse sul lavoro, sposta l'imposizione sulla casa e i consumi. Risale intanto la fiducia dei consumatori. All'Italia per il crack della gestione fino al 2007, condannati gli ex manager, tra loro Cimoli e Mengozzi, avrebbero causato un danno da 4 miliardi. Notizia di pochi istanti fa: su Marte scorre acqua liquida, sono minuscoli ruscelli di acqua salata che compaiono periodicamente. La rivelazione è stata pubblicata su Nature Geoscience. E siamo alla politica, con una settimana che si apre ancora importante per le riforme costituzionali, e con questi 72 milioni di emendamenti di Roberto Calderone e della Lega che ancora incombono sui lavori del Senato. Elisabetta Fiorito, eccoci. Beh Simone, diciamo che 11 milioni però Calderoli l'ha ritirati quelli all'articolo 1. Ovviamente stiamo scherzando, perché è una settimana decisiva per sapere cosa ne sarà appunto dei milioni di emendamenti depositati dal leghista Roberto Calderoli per contrastare, lo ricordiamo, la riforma del Senato non elettivo. Ad intervenire il premier Matteo Renzi, per il quale l'Italia sta stupendo il mondo con le riforme, e fiducioso è anche il capogruppo del PD Luigi Zanda. L'accordo nel partito reggerà e terrà anche nei voti segreti. Emendamento contorto invece lo definisce Pierluigi Bersani, ma abbiamo ridotto il danno, dice l'ex segretario a Mix24, anche se è preoccupato per una possibile intesa con i verdiniani. Sentiamo quanto ha detto a Giovanni Minoli. La pena di oggi è questa: vedo l'onorevole Verdini, senatore Verdini e compagnia, con gli amici di Cosentino e compagnia, che stanno cercando di entrare nel giardino di casa nostra per fare la coalizione della nazione, il partito della nazione. Mi sembra che con la Boschi insomma ci sia stato allora, un buon rapporto. Allora, siccome questo è un delirio trasformista, mi aspetterei che dal Nazareno venisse una parola chiara su questo delirio trasformista, perché non vorrei che si sottovalutasse l'effetto che queste cose hanno sui nostri militanti. Nel centrodestra invece Silvio Berlusconi vuole tornare in campo perché tutti scappano da Forza Italia, ma il leader della Lega Matteo Salvini avverte: le intese sono alle nostre condizioni. A giorni ci sarà il candidato per Milano del nuovo centrodestra, cioè scusate, del centrodestra. In pole position è sempre il giornalista Paolo Del Debbio, ma intanto Raffaele Fitto attacca: Silvio è finito e si faccia da parte. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Parzialmente coinvolto dalla vicenda delle riforme, perché è un senatore del Partito Democratico, ma in realtà non è per questo che l'abbiamo chiamato, c'è Stefano Esposito, che è assessore alla mobilità a Roma. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, questa mattina crollo di una controsoffittatura nella metro di Roma, metro ferma da quel che ho capito fino alle 15. Esposito, ci dice cosa è successo, cosa siete riusciti a ricostruire? Ma per il momento, e quindi quello che le dico è sub iudice rispetto all'indagine in corso, si è acceduto, si è staccato, questo lo capiremo, il vano portabatterie di un treno CAF della metro A, è uscito, diciamo, dalla propria sede naturale, ha cominciato a urtare la galleria, e nelle gallerie a ogni metri c'è un restringimento che è in corrispondenza della delle controvolte, non del controsoffitto come hanno scritto i giornalisti, ma non importa, e la controvolta... È come ho detto anch'io, però insomma sì, è bene che l'abbia chiarito, prego. È la controvolta che tra l'altro sostiene la linea aerea, e quindi colpendola ha fermato, ha danneggiato la linea aerea e si è fermato tutto. Ora capiremo dall'indagine che è già partita e che vede tra i componenti della commissione anche il Ministero delle Infrastrutture se si tratta di un cedimento strutturale o del fatto che quel vano portabatterie che serve per la manutenzione non è stato tutto bene, ma in questo momento devo dirle l'ultimo dei problemi che ho. Senta assessore, c'è stato, non è il primo problema che si verifica sulla metropolitana di Roma, e il Giubileo è ad un passo. Ma guardi, io sono settimane e settimane che continuo a segnalare il problema e anche occuparmi della possibile soluzione, naturalmente. Non è stato, ho notato un certo disinteresse per le questioni concrete, mentre vedo una certa passione per le presunte dimissioni di Tizio, di Caio e i retroscena modello Eva 2000, con tutto il rispetto per Eva 2000, naturalmente. E in questa città negli ultimi 10 anni si sono dimenticati di fare la manutenzione alla linea metropolitana, all'infrastruttura. E oggi io mi trovo a farmi carico, perché non sono abituato a scaricare le responsabilità di ciò che non è stato fatto, a provare a trovare delle soluzioni. Al momento abbiamo avuto 9 milioni dalla prima tranche per il Giubileo e abbiamo già messo in pista gli interventi. Come ho detto, nelle ultime settimane questo deficit manutentivo è un deficit manutentivo che per essere affrontato richiede 30 milioni subito, non domani, subito, e possibilmente anche accompagnate così. Diamo anche qualche altro elemento di polemica, da una deroga sul modello Expo in modo che li possiamo spendere subito. E in questo modo io garantisco un Giubileo nel quale abbiamo la metropolitana che abbiamo, e non mi parlate di Londra, Parigi, Berlino, no, perché poi per diventare una vera metropolitana è sempre la metropolitana di Roma, comunque, insomma, ecco, però almeno funziona per le linee che ha con 30 milioni. La facciamo funzionare al massimo delle sue possibilità, in totale sicurezza, e visto che anche i macchinisti, colgo l'occasione per dirlo anche a voi, cioè, io so che ci sono stati molti problemi nei mesi di giugno e luglio, però in questo momento tutti i dipendenti di ATAC, macchinisti, autisti, stanno dando il 110% in una situazione molto difficile, perché abbiamo una macchina molto vecchia, trascurata, e quindi vorrei che i romani, di fronte ai problemi, non se la prendessero con loro, se la prendano con me, sono io l'assessore. Se la prendano con me, non se la prendano con loro, perché non lo meritano, ed è proprio un modo sbagliato di trattare chi lavora. Non dubito che lo faranno, senatore. Intanto la ringrazio, grazie a Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico e assessore alla mobilità del Comune di Roma, Roberto Monducci, direttore del Dipartimento per i Conti Nazionali e le Statistiche Economiche di Istat. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ottimi i dati oggi sulla fiducia, quella dei consumatori arriva a livelli che non si vedevano da 13 anni, dal 2002, e a livelli che non si vedevano da 8 anni quella delle imprese. A cosa dobbiamo questo incremento del clima di fiducia? Diciamo che questo si inserisce in una tendenza già in atto, soprattutto per le imprese. Noi abbiamo un aumento più o meno intenso, ma abbastanza regolare, della fiducia già dalla fine del 2014. La novità di questo mese è l'estrema omogeneità di questi segnali tra i settori di attività economica, quindi la fiducia aumenta in tutti i settori, quindi in senso stretto, costruzioni, servizi, commercio, e questo è un dato estremamente positivo, cioè quando i segnali tendono a convergere evidentemente le dinamiche economiche sono più robuste, cioè danno segnali quantitativi che poi vengono riflessi, incorporati nelle valutazioni da parte delle imprese. Per quanto riguarda i consumatori, invece, l'andamento negli ultimi mesi è stato un po' più erratico. I dati però dell'ultimo mese confermano un'impennata. Questa impennata è sostanzialmente dovuta alle aspettative, quindi abbiamo una situazione in cui è cambiato in qualche misura, in modo strutturale sembrerebbe almeno, il quadro delle aspettative delle famiglie sul futuro, mentre la valutazione della situazione corrente in termini di situazione finanziaria, possibilità di risparmio, acquisto di beni durevoli è abbastanza stabile, quindi è più un elemento di fiducia sulla prospettiva che rispetto a un miglioramento reale della propria situazione economica nel breve periodo. La ringrazio, grazie Roberto Monducci per la rapidità e la chiarezza, direttore del Dipartimento per i Conti Nazionali e le Statistiche Economiche di Istat. Abbiamo parlato molto di Italia in questa prima parte di Effetto Giorno, andiamo all'estero, adesso occupiamoci di Siria. Questa mattina i francesi hanno iniziato i raid sulla Siria, ma l'attenzione si concentra su questo pomeriggio, un pomeriggio nel quale Vladimir Putin tornerà alle Nazioni Unite dopo molto tempo. La Russia non intende partecipare a operazioni di truppe in Siria. Lo ha ribadito stamattina il presidente russo Vladimir Putin, che oggi vedrà all'ONU il presidente americano Barack Obama. Al centro della bilaterale, la prima in due anni, proprio la situazione a Damasco, dove si è entrati nel quinto anno di conflitto. Putin, isolato dall'Occidente per la crisi in Ucraina, accelera quindi sulla Siria, prendendo Washington in contropiede. Il leader del Cremlino, in un'intervista alla vigilia dell'appuntamento al Palazzo di Vetro, ha chiesto una piattaforma comune per un'azione collettiva contro le milizie jihadiste dell'ISIS, che sostituisca la coalizione sotto comando americano e coinvolga le forze di Assad. Now. Anche Teheran pare essere di questo avviso. Oggi credo che tutti abbiano accettato che il presidente Assad debba rimanere in modo che possiamo combattere i terroristi, ha dichiarato ieri alla CNN il presidente iraniano Hassan Rouhani. Oggi la palla passa a Obama, mentre l'Europa appare divisa. Da una parte la Francia, che ha cominciato i bombardamenti in Siria, dall'altra chi, come il premier italiano Renzi, chiede che si eviti una Libia bis. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli sul caso Volkswagen: è indagato in Germania l'ex amministratore delegato Winter Korn. Sono oltre 2 milioni nel mondo le Audi coinvolte nello scandalo emissioni. L'Europa si rivolge all'Italia sulla manovra: riduca le tasse sul lavoro, sposti l'imposizione sulla casa e i consumi. Per il crack della gestione fino al 2007 di Alitalia sono stati condannati gli ex manager e ci saranno risarcimenti per 355 milioni. È crollata una controvolta in una stazione della metropolitana di Roma, è stato evacuato un convoglio, treni fermi e dovrebbero ripartire intorno alle 15. E altre due notizie appena battute dalle agenzie: la prima riguarda la Siria, ne abbiamo parlato poco fa, i raid aerei francesi sono al di fuori del diritto internazionale, a dirlo è la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. E l'altra riguarda il cinema, perché Non essere cattivo, film postumo di Claudio Caligari, quello scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella selezione per il miglior film in lingua straniera. Alla borsa. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Borse in diretta. Ed è una giornata quella di oggi dove sembrano tornare a pesare le vicende automobilistiche, considerata che Volkswagen perde il 7% in questo momento e anche Fiat è molto pesante, perde il 4,01%. E non so se questo, lo chiedo a Isabella Tassola, io corro il Sole 24 Ore, che saluto, buongiorno Isabella. Buongiorno. Non so se questo che spinge così a ribasso i listini, il FTSE MIB cede il 2%, il FTSE O'Share l'1,89%, Parigi giù del 2,24%. Sì, Simone, senz'altro questo, ma comunque il malumore è generalizzato, sono in particolare tre i settori che stanno deprimendo gli indici oggi, quindi c'è più del settore auto. Comunque cominciamo con l'auto, che dopo una seduta di respiro venerdì scorso torna a pagare i timori innescati dal caso Volkswagen sugli impatti di nuovi controlli in Europa e negli Stati Uniti e l'ipotesi di riorganizzazioni produttive per l'industria. L'indice di settore cede quasi il 4%. Volkswagen, come già ricordavi, cede il 7%, Renault, Peugeot il 4,3%, FCA il 3,2% a Milano. Vanno male però anche i minerari, che pesano soprattutto sulla borsa di Londra. Il driver è rappresentato dal crollo di Glencore, che è il gigante anglo-svizzero delle materie prime, che è nel mirino di broker molto pessimisti sul titolo, visto l'andamento dei prezzi delle materie prime. A Londra il titolo cede il 20% e trascina al ribasso gli altri player minerari. Sotto i riflettori anche il settore delle telecomunicazioni. Vodafone, sempre a Londra, cede il 4% dopo lo stop ai colloqui con Liberty Media per uno scambio di asset fra i due gruppi. A Milano Telecom è giù di quasi il 2%. Grazie Isabella Tassor, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento, dopo questi giorni molto intensi oltreoceano, di fare un bilancio di questa visita del Papa tra Cuba e gli Stati Uniti. Il Papa ha dimostrato una destrezza politica sfaccettata, schivando la cornice del dibattito americano e disegnando il proprio più ampio percorso. È il New York Times a sintetizzare bene il bilancio del viaggio di Francesco negli Stati Uniti. Ha fatto appello per la vita, ma sottolineato l'opposizione alla pena di morte e non all'aborto. Ha caldeggiato la libertà religiosa, insistendo però sulla tolleranza. Un approccio, come da previsioni, prevalentemente pastorale, quello scelto dal pontefice, che poco si è prestato a strumentalizzazioni. Forti i richiami su temi come l'immigrazione, l'inclusione, la necessità di affrontare l'esclusione sociale. Filo conduttore, la chiesa, ospedale da campo, che si cala sulle ferite, quelle delle vittime di pedofilia, dei carcerati, dei poveri e delle famiglie in difficoltà, in vista del sinodo ormai imminente. L'ultimo avvertimento per i vescovi in un paese dove non è un mistero che il fronte conservatore sia forte. Guai ai circoli ristretti di chi si crede perfetto. Anche se, ha precisato il Papa sul volo di ritorno a Roma, la riforma della nullità non è un divorzio cattolico. Durante il viaggio anche un nuovo intervento sull'immigrazione. Tutti i muri crollano, ha detto Francesco. Non è questa la soluzione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è un altro passaggio del suo intervento in aereo, sull'aereo di ritorno, che farà discutere. Ad una domanda in merito al fatto che il sindaco di Roma, Ignazio Marino, è andato a Filadelfia per la messa celebrata dal Papa. Io non ho invitato il sindaco Marino, chiaro, ho chiesto agli organizzatori e neanche loro lo hanno invitato. A domanda precisa ha risposto il Papa: è venuto, lui si professa cattolico, è venuto spontaneamente, e sicuramente questo farà discutere. Saluto Luca Veronesi, inviato del Sole 24 Ore a Barcellona. Luca, buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Per parlare del voto di ieri, che ha fatto ottenere a due partiti indipendentisti catalani insieme la maggioranza dei seggi, per quanto non la maggioranza dei voti, perché sono fermati tra il 47 e il 48%, se non erro. Vorrei chiederti, Luca, che cosa rappresenta questo voto? Allora, la situazione è più complicata di quanto fosse prima del voto, e questo già non è una buona cosa per la Catalogna e per la Spagna. E la situazione è quella di un fronte indipendentista che non ha avuto la prova di forza che aveva chiesto agli elettori. Ha certo la maggioranza, come dicevi, dei seggi nell'assemblea regionale, ma non la maggioranza dei voti. In più, il partito di Mas, il governatore che ha portato lo scontro con Madrid fino a questo punto, fino a chiedere l'indipendenza, e il partito di Mas ha perso sia consensi che seggi, e quindi il fronte indipendentista si è spostato verso sinistra. Da oggi stanno cercando di un'intesa, quindi il partito di Mas, conservatore, nazionalista, catalano, e l'estrema sinistra anch'essa per l'indipendenza. Un'intesa molto difficile, soprattutto per governare la regione. Certo, più facile per chiedere a Madrid la secessione. Due cose succederanno probabilmente: che Mas non avrà la forza di andare avanti, non sarà forse nemmeno lui il leader di questa Catalogna che vuole essere indipendente. E soprattutto a dicembre ci saranno le elezioni nazionali, nelle quali Rajoy, sconfitto anche ieri con il suo partito popolare, il Premier, qui in Catalogna, e nelle elezioni generali di dicembre rischia di prendere un'altra batosta, e quindi ci sarà con tutta probabilità un cambio al governo nazionale. Queste due cose, la perdita di potere di massa e il cambio nel governo nazionale, potrebbero portare a una nuova stagione, una stagione di negoziati e di un processo che forse non porterà l'indipendenza, ma sicuro porterà alla Catalogna più autonomia e qualche, magari qualche risorsa economica in più. In 10 secondi, Luca, quindi il punto di caduta potrebbe essere non l'indipendenza, ma una maggiore autonomia. Sì, per una maggiore autonomia c'è una stragrande maggioranza qui in Catalogna, e anche partiti come il Partito Socialista Nazionale o il Podemos Nuovo di Iglesias sono d'accordo nel fatto che i catalani debbano decidere qual è la loro situazione all'interno della Spagna e che la Catalogna debba avere maggiore autonomia. Sono tutti d'accordo, sì, per una riforma federale dello Stato, e probabilmente quella sarà la direzione a partire dall'anno prossimo. Ti ringrazio, grazie a Luca Veronese, inviato del Sole 24 Ore a Barcellona. Noi, per chiudere, ritorniamo sul caso Volkswagen. Le notizie di oggi ve le abbiamo date: è indagato l'amministratore delegato Winterkorn in Germania, ci sono 2 milioni di Audi, di cui 1,5 milioni nell'Europa occidentale, coinvolte dallo scandalo emissioni, però c'è anche il rischio di impatto sulla produzione italiana, sui fornitori di Volkswagen. Il vicepresidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, in occasione della presentazione di un'indagine congiunturale, l'indagine congiunturale di Finmeccanica, che segnala ancora elementi positivi, soprattutto per le imprese produttrici di auto e veicoli, invita alla cautela. Siamo assolutamente convinti che sia prematuro andare a discutere di quali saranno gli effetti concreti dello scandalo Volkswagen sul nostro settore metalmeccanico e sull'industria automotive collegata ad esso. Vorrei ricordare che da parte nostra c'è un segnale di grande attenzione, di grande cautela, di moderata preoccupazione, ma di non volersi, ecco, essere allarmati di fronte ai dati che sentiamo. Questo perché è vero che il Nord Italia in particolare, ma in generale tutta la nostra penisola, possiamo dire essere il primo fornitore, il primo subfornitore dell'industria automotive tedesca. Quindi sicuramente la situazione Volkswagen potrebbe impattare sulle nostre aziende, però diventa difficile andare a identificare i fattori, quanto questo scandalo impatterà. Tutto sommato quello che stiamo producendo oggi è frutto di ordini staccati settimane o forse mesi fa, sono state bloccate n decine di migliaia di autovetture che magari saranno riparate e poi consegnate ai propri clienti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Insomma, è importante mantenere un elevato livello di attenzione, ma nessun allarmismo. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. La famiglia Francis ditched most of his prepared remarks and spoke passionately about the need for families in today's society. Beh, la grande messa finale con cui Papa Francesco si è congedato dagli Stati Uniti, da Filadelfia. Pensate, quasi 1 milione di persone sono arrivate alla Franklin Parkway, appunto, di Filadelfia, uno dei più grandi spazi pubblici degli Stati Uniti. Il Papa aveva visto anche dei prigionieri alla Curran Fromhold, del centro di correzione di Filadelfia, aveva presenziato al grande incontro sulla famiglia, sullo stato della famiglia. Ma è stata questa messa finale, devo dire, che ha dato un po' il senso di questo abbraccio, soprattutto pastorale. Papa che è passato per le Nazioni Unite, dove ieri sono cominciati i lavori preliminari con l'agenda per le donne, quella per gli obiettivi del millennio, che sono stati spostati a questo punto al 2030, obiettivi che riguardano l'ambiente, l'emancipazione delle classi più povere e così via, così via. Oggi ci sarà il discorso di Barack Obama, il vertice Obama-Putin, un vertice molto importante, e si è parlato all'ONU anche di economia. Ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che abbiamo incontrato ai margini di questi lavori. Sentiamo. La crescita italiana è nelle mani degli italiani. Quello che veramente sto cercando di dire tutti i giorni è che se pensiamo a dove eravamo un anno fa, con le riforme tutte ferme, e adesso le riforme si sono messe tutte in moto, vediamo che l'Italia la sua parte l'ha fatta. Stiamo stupendo il mondo con il fatto che abbiamo preso degli impegni e li stiamo realizzando nei tempi che ci eravamo dati. Ecco, un messaggio positivo quello di Matteo Renzi, un messaggio piuttosto forte che ha riportato poco dopo alla Clinton Global Initiative, il grande convegno organizzato dall'ex presidente Clinton, dove convergono

Ed è veramente tutto per Effetto Giorno. I ringraziamenti: c'è Paolo Corleoni in regia, Laura Faggin in assistenza in redazione, come sempre tutta la redazione di Radio 24. Vi ricordo, forse non lo faccio abbastanza spesso, che se volete potete contattarci, effettogiorno@radio24.it. c'è eventualmente anche la nostra pagina Facebook. La trasmissione, come sempre, torna domani alle 13 con tutti i fatti più importanti, appunto a metà giornata, di quello che succede in Italia e nel mondo. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24. Una buona giornata da Simone Spezia.